Radio Cerrano presenta Sportivamente Parlando, un programma ideato e condotto in studio da Federico Di Fabio. Buonasera, buonasera ai nostri gentili spettatori, siamo qui con la terza puntata di Sportivamente Parlando. Per questa puntata parleremo principalmente del campionato di prima categoria, Girone E. Siamo qui con due rappresentanti del Borgo Santa Maria, che è una delle sorprese di questo campionato, che lo sta dominando forse dalla prima all'ultima giornata, speriamo, per voi. Allora, io innanzitutto saluto Paolo Coletti, dirigente del Borgo Santa Maria, e l'attaccante, il bomber Matteo Iommarini. Buonasera. Allora, io prima di entrare nel merito dei campionati vorrei fare un piccolo cenno sulla manifestazione che si è tenuta questa mattina nel Teatro Comunale ad Atri, con il mister della Sampdoria Marco Giampaolo, che ha incontrato gli studenti dell'istituto sportivo dello Zoli di Atri. È stata una bella manifestazione. Non so se avete sentito qualche notizia in merito. Sì, ho visto qualche filmato di Giampaolo che era lì al Teatro Comunale. Sì, anche perché si è dimostrato una grande persona, soprattutto che tiene molto alla nostra regione, allo sport abruzzese. Lui ha parlato, mi è piaciuto subito il discorso che ha detto, perché sono stati molti interventi da parte dei ragazzi che dicevano qual è la differenza tra una categoria e l'altra, principalmente, non dico parlando ovviamente della qualità, perché se no non esisterebbero queste differenze di qualità, di categorie, ma principalmente dal lato mentale e dal lato agonistico. Secondo voi, lui ha detto che la differenza non c'è, perché se c'è passione, il calcio accomuna tutti quelli appassionati, quindi se c'è passione la si vive ugualmente. Voi cosa ne pensate? Sì, io sono d'accordo, perché professionista, diciamo, la fa solo la categoria, perché chi è professionista lo è in tutte le categorie, soprattutto come si allena, come si dedica, diciamo, alla vita privata. Chi ha passione ha passione. Quindi gli do ragione. Sono pienamente d'accordo con il nostro bomber. Diciamo che, come possiamo dire, che sì, a livello professionistico ci vuole tanto impegno e se si uniscono le stesse cose. Anche perché tu, Matteo, diciamo che il professionismo l'hai sfiorato nei primi anni della tua carriera. Hai militato in alcune squadre di Serie D, come ad esempio la Sant'Egidiese, il Miglianico, l'Angolana. Hai visto qualcosa di differente, oppure ti è sembrato? Sì, a parte che magari i giocatori di Serie D lo fanno per mestiere, lo prendono come mestiere questo sport. Tralasciando quel fattore, hai notato qualche differenza dal punto di vista della passione? Della passione no, perché comunque anche in queste categorie si trova chi ha veramente passione. Noi ce l'abbiamo un esempio eclatante nello spogliatoio, che è il capitano Riccardo Maniero, che lui, come ha passione lui, forse anche un po' esagerata, perché veramente un leader dentro e fuori al campo. Leader, sì, mette passione in tutto quello che fa e ci crede veramente. Allora io pregherei la regia di mandare la piccola intervista che abbiamo fatto al mister Giampaolo questa mattina, quindi pregherei la regia di mandare in esclusiva questa registrazione. Intelligenti. Sono partecipo sempre volentieri a questo tipo di incontro, perché credo siano mossi dalla curiosità. Io sono stato sempre curioso in quello che è il mio lavoro, in quelle che sono le mie competenze, il mio ambito lavorativo, e quindi capisco anche la curiosità degli altri, la disponibilità nel confronto con i giovani che hanno sogni, ambizioni, aspirazioni, è sempre molto positivo. No, assolutamente. I giovani hanno energia, hanno non sono mai banali, non sono scontati, sono diretti nelle domande. Mi piace, tant'è che io li ho invitati. Se c'è qualcuno che vuole partecipare a uno stage di aggiornamento per vedere come si lavora, alcune volte si accendono lampadine che altrimenti resterebbero spente. Federico è stato un talento come calciatore, perché è stato un talento, e spero possa avere lo stesso talento da allenatore. È un creativo e i creativi sanno sempre tirar fuori cose diverse rispetto a quelli che lo sono meno. Se sei mosso dalla passione arrivi, se sei curioso arrivi, ma arrivi soprattutto se hai talento. Se non hai talento ti arrampichi, puoi fare qualcosa in più rispetto a chi ha talento. Se hai passione, non dico che riesci a colmare il gap, ma ti avvicini. Lo sport è sacrificio, rinuncia, soprattutto rinuncia, e quindi devi essere disposto a rinunciare a qualcosa per primeggiare. Ma alla fine tutto si racchiude nella stessa parola e dimensione, talento. Il talento non è soltanto tecnico, il talento è il talento a 360. Beh, la rappresentanza è numerosa, perché 3 su 20 sono tanti per una regione come la nostra. Ma speriamo di sì, speriamo di poter. Poi l'Università dello Sport, il liceo che ti inizia lo sport, c'è un bel movimento. Il tutto va contestualizzato. Bisogna poi rendere questo studio, renderlo tra virgolette operativo, cioè non uscire dal mondo della scuola e trovare un mondo diverso, ma incentivare il miglioramento attraverso questo incontro, qualche stage di partecipazione. Questo è molto interessante. Allora, mister ha parlato dell'importanza del ripartire, soprattutto dopo la disfatta, possiamo dire così, con la Svezia. L'Italia deve ripartire, l'Italia calcistica deve ripartire, e soprattutto deve ripartire dal basso. Come diceva il mister, deve ripartire dalle scuole. Le scuole devono trovare delle qualità nei ragazzi, soprattutto nei preparatori, negli allenatori. Quindi, secondo me, qual è la giusta dose di qualità e impegno che l'Italia, tutta l'Italia insieme, deve soprattutto partire da queste categorie, deve dare per avere un ritorno in dove ci spetta. Sì, sicuramente dopo la brutta figura che abbiamo fatto con l'esclusione del mondiale, si deve ripartire dal basso, come dice il mister. Secondo me si deve ripartire da tanto lontano, anche in Serie A, far giocare qualche, sponsorizzare di più gli italiani. Che comunque, se vediamo le squadre professioniste, troppi stranieri, dalle giovanili alla prima squadra, e non riusciamo a sfruttare gente italiana, calciatori italiani che possono dire anche la loro. Dobbiamo puntare molto sui giovani, molto, perché vanno tutti all'estero, arrivano gli inglesi e comprano giovani con fior di soldi. Invece di farli andare altrove, li dobbiamo tenere noi. Faccio un esempio, tipo, perché sono di una squadra, Patrick Cutrone, cioè arriva un'altra squadra e se lo compra, ma non va bene. Tipo Balotelli, dobbiamo puntare sui giovani, molto sui giovani, invece di farli andare via. Magari bisogna riprendere anche un po' lo stampo che hanno le categorie non professionistiche, perché ricordiamo che se non si è comunitario, se non si è italiano, non si può partecipare in campionati che non sono professionistici. Quindi diciamo che magari con, non dico una regola così, perché ovviamente sarebbe un po' troppo, eccessivo, Però comunque una limitazione degli stranieri porterebbe sicuramente i suoi frutti. Allora io proseguirei con la lettura dei risultati della Serie D, partiamo dall'alto. Allora leggo subito i risultati: Jesina Monticelli 1-1, Matelica Fabriano Cerreto 1-1, Pineto Calcio Nero Stellati Derby Abruzzese 2-3, Recanatese Castelfidardo 5-1, San Marino Olimpia Nenese 0-1, Pesaro San Nicolò 0-0, Avezzano Francavilla 3-1, Vastese San Giustese 0-0. Leggo velocemente la classifica: comanda il Matelica a quota 61, 57 per il Vispesaro, 47 Avezzano, 44 Vastese, 43 Castelfidardo, 41 L'Aquila, 39 Francavilla e San Marino insieme alla San Giustese, 37 Pineto, 36 Città di Campobasso, 31 Recanatese, 30 Olimpia Nenese, 29 San Nicolò Teramo, 26 Jesina Calcio, 22 Monticelli, 19 Fabriano Cerreto e chiudono i Nero Stellati a 14 punti. Possiamo dire i Nero Stellati oramai, nonostante la vittoria con il Pineto, sono con un passo e mezzo, possiamo dire, in eccellenza. Questo magari vi può anche, non dico far, sicuramente non vi farà piacere, perché si vede un abruzzese che non riesce a calarsi nella categoria, però soprattutto questa eventuale retrocessione toglierà un eventuale posto magari in caso di playoff di prima, che poi ci sarà sicuramente una reazione. Partendo dall'eccellenza, la promozione avrà una squadra in più che riscenderà quindi dai playout d'eccellenza, e quindi dalla prima saliranno meno squadre. Questo sicuramente sarà, spero non per voi, ma sicuramente condizionerà tutto il campionato. Sì, sicuramente. Noi speriamo di non pensare a queste cose chiudendo la pratica prima, vincendo il campionato non abbiamo questi problemi, quindi proviamo a chiuderla prima. Questo adesso il Pineto sì, ha dato un po' di speranza a questi Nero Stellati, però Paolo, secondo te qual è stato, come è stato possibile una squadra così ambiziosa come il Pineto perdere contro l'ultima della classe in rimonta? Ricordiamo che sta vincendo 2-0 e addirittura è riuscita a perdere per 3-2. Sì, c'è molto rammarico, perché la partita era iniziata bene per il Pineto, stava vincendo 2-0, si è fatta recuperare nel secondo tempo, ma un calo fisico, non ho visto la partita, non ho visto le immagini, penso sia stato un calo fisico e i Nero Stellati poi segnando un gol ci hanno creduto e hanno portato a casa una bellissima vittoria che non migliora la situazione, ma porta un po' di entusiasmo, anche se la classifica non dice questo. Anche perché voi, essendo di Pineto, magari sentite questa sconfitta un po' più pesante dal punto di vista della classifica, anche perché il Pineto era partito fortissimo, era vicinissimo alla zona dei playoff, e poi c'è stato un crollo decisivo che a questo punto limita tutte le ambizioni. Sì, avevamo inanellato, mi credo, 13-14 risultati utili, mo non tutte vittorie, ma 6-7 vittorie dei pareggi, ma c'è stata la pausa e purtroppo, come ogni squadra che sta in forma, la pausa non fa bene. Ma tu sei scuola Pineto oppure? No, Pineto no. Però comunque voi del Borgo avete sicuramente, ovviamente, delle buonissimi rapporti con il Pineto, avete molti giocatori in prestito dalla stessa, ricordiamo ad esempio i gemelli Assonia che sono forse la colonna portante della difesa, insieme a Maniero, insieme a Martella, sono la colonna di questo Borgo che, ricordiamo, fassi tanti gol perché è il miglior attacco, ma ne subisce anche pochi. Sì, siamo una squadra diciamo completa, dallo zoccolo duro del Borgo passato ai nuovi innesti che sono stati messi. Ci completiamo a vicenda e speriamo che continuiamo così. Speriamo tutti noi sportivi. Allora proseguirei con il campionato di promozione Girone A, dove penso aspirate, quindi vi farà tutti gli scongiuri del caso, comunque ci sono anche i playoff in caso dovesse andare male, quindi c'è sempre un'ambizione, un obiettivo, che quello ma non ci può, oramai non puoi nascondere. inizio campionato magari qualcuno che era più scettico, quando hai detto ai lavori sapevamo della vostra forza, poteva dire magari puntiamo a zona onesta della classifica, quindi in zona playoff, però adesso non vi potete nascondere oramai. No, nascondersi adesso sarebbe quasi ridicolo, cioè proprio finto, perché arrivare a più 4 punti dalla seconda, 5 partite alla fine, nascondersi sarebbe ridicolo. Quindi adesso ci siamo, ripeto, cerchiamo prima di chiudere la pratica e poi cominciamo a pensare al resto. Come è giusto che sia. Allora continuo con la lettura dei risultati di promozione del girone A. Colonia Tossicia 2-0, Ponte Romano Piano della Lente 3-2, Alba Monterrey Notaresco 2-0, Celano Mociano 0-0, Morro d'Oro Mutignano 1-1, Pucetta Fontanelle 1-1, San Gregorio Luco 3-0, Sant'Omero Sant'Egidiese 1-2, Virtus Teramo Rosetana 1-1. Leggo velocemente la classifica. Comanda la Virtus Teramo, ma a pari merito con il Ponte Romano per il momento è avanti per lo scontro diretto, che ha a favore il Luco 54, 51 per il San Gregorio, 50 per il Fontanelle, 47 Rosetana e Pucetta, 46 Colonia, 42 Mociano, 39 Piano della Lente e Celano Mastica, 38 Nuova Sant'Egidiese, 34 Morro d'Oro, 29 Sant'Omero e Mutignano, 24 Tossicia, 23 Alba Montarei, 14 Notaresco. Allora, Matteo, un commento su questa classifica. Tu hai giocato in parecchie squadre, in un paio in realtà, di questa categoria. Il Mutignano e la Sant'Egidiese, anche se è una nuova società, però è sempre lo stampo di quello che era magari in Serie D. La dirigenza è simile, anche se è ripartita dai bassi fondi. Sant'Egidiese è riuscita a tornare in promozione 2 anni fa, cioè l'anno scorso, quindi 2 anni fa era in prima, però sta facendo fatica a mantenere questa categoria. Cosa pensi di questa realtà? Se la vedi bogliosa, magari se hai sentito qualche notizia, com'è? No, Sant'Egidiese è una piazza molto calda, sì, seguita da parecchi, però più che Sant'Egidiese, Fontanelle e Mutignano, dove ho giocato. Penso il Mutignano quest'anno è partito male, sta provando a salvarsi senza passare dal play-out. Penso molte volte è stata sfortunata, perché da come hai sentito tu dire, perché la domenica giocando non riesco ad andarla a vedere. È stata sfortunata, gioca bene ma poi non vince. Sì, anche perché ha una squadra, possiamo dire, tutto rispetto, anche Trento e Assonia davanti non sono due persone così, sono molto esperti, hanno fatto. A Sogna è arrivato sopra i 100 gol in carriera, Trento se non 100 stiamo lì vicino. Quindi Paolo, secondo te perché c'è stato questo crollo nel Mutignano? Anche perché magari si era messo bene, il precampionato era molto, molto speranzioso, poi con l'esonero di Macera, con l'allontanamento di un allenatore che è stato per 5 anni lì, è stata comunque una botta sia per i giocatori, anche perché lo zoccolo duro della squadra è partita, molti sono andati via, come ad esempio Lolli e Cantoro, che sono andati al calcio Ate, quindi li affronterete nella prossima giornata. Quindi Paolo, secondo te perché c'è stato questo crollo? Non so se magari hanno una spiegazione oppure... Guarda, sinceramente non lo so, veramente, perché non me l'aspettavo, perché sono anni che il Mutignano fa dei bellissimi campionati, tipo come l'anno scorso, l'inizio campionato stava... Se non mi sbaglio, a girone di andata stava primo. Sì, fino stava, forse la quinta giornata del ritorno. Sì. Ho avuto un crollo e quest'anno sinceramente non mi spiego, perché aveva un'ottima squadra. Non voglio dire che poteva puntare alle prime posizioni, ma secondo me i playoff li poteva fare. Poi, come si dice, il pallone purtroppo è tondo. Di domenica in domenica cambia tutto, cambia. Non lo so. Anche perché non so se lo possiamo dire, a Sogno è stato anche vicino al Borgo Santa Maria in estate. E magari ha scelto Mutignano appunto perché era un progetto ambizioso che poi non si è rivelato tale. In merito a questo, sinceramente, ora non sono tanto informato. Comunque sì, abbiamo preso dei contatti con lui, ma poi lui ha scelto una strada diversa, ma è un grandissimo giocatore. È stato scoperto da terzino, ad attaccante, ricordiamolo. Matteo, tu hai militato anche il Fontanelle, come dicevi, una società che nonostante è una piccola realtà, perché sono poco più di 600 abitanti, a Fontanelle è una società che dà tutto su questa squadra, e i risultati si vedono, sono almeno 4 stagioni che è sempre lì davanti, e forse la passione che manda avanti questi risultati molto, molto buoni, possiamo dire. Sì, sicuramente, a Fontanelle ci sono stato per, diciamo, fino alla sessione di dicembre, poi sono andato via, però sì, è una piccola realtà, ma ti fanno sentire veramente bene. Poi hanno anche un gruppo di ragazzi come lo abbiamo noi quest'anno, che ci seguono, ci incitano, anche loro ce l'hanno. È una bella, diciamo, una bella realtà, piccola ma bella. Posso dire, alla fine possiamo dire sì, è piccolissima, però come il Trecci Miniere stesso, che sta facendo un bellissimo campionato del girone B, 347 anime, ancora più piccola la metà di Fontanelle, ma nonostante tutto sono sempre lì davanti. L'anno scorso l'avete vissuto magari, Matteo di meno, visto che era a Castelnuovo, però Paola l'ha vissuto un po' più sulla sua pelle. È stato il vero mattatore del cambiato in prima categoria. Lo scorso anno nessuno poteva stargli vicino, perché erano veramente imprendibili. Sì, era veramente una bellissima squadra. Poi ricordiamo che in panchina c'è il mago Di Marzio, che abbiamo avuto come nostro ospite la scorsa puntata. Sì, noi, se non ricordo male, in casa stavamo vincendo 1-0, ma nel secondo tempo con un Raschellà che metteva due palloni e Sorricchio con due reti. Poi c'è stato anche il 3-1, hanno vinto la partita, ma ho visto veramente un bellissimo gioco per tutto l'arco del campionato. Poi ho avuto modo di andare a vedere la partita che forse ha decretato la loro vittoria del campionato, contro il San Giovanni, quando hanno vinto 4-3, se non sbaglio. Era una bellissima squadra, e tenendo anche, vorrei fare una nota per un grandissimo giocatore che penso sia uno degli esterni d'attacco più forti, che è Assogna Lorenzo. L'abbiamo elogiato moltissimo la scorsa puntata con lo stesso mister, che è innamorato di questo giocatore. Sì, veramente forte, l'ho visto giocare, non voglio dire che e di categorie superiori, ma l'eccellenza mi hai anticipato la domanda, perché il mister diceva quest'anno magari non era pronto per il salto di categoria, perché non aveva mai affrontato un cambio di promozione, perché lui, essendo scuola Pineto, si è rotto, mi sembra, il ginocchio, comunque ha avuto un infortunio molto grave, si è ripreso con il Trecci Miniere, ha fatto 3 anni a Trecci Miniere, ma doveva appunto affrontare questo cambiato di promozione prima di dare spazio a una carriera molto più ambita. Però lo stesso mister ha detto che secondo lui è arrivato il momento di provare lidi molto più ambiti. Sei dello stesso parere? Sì, confermo. Secondo me può ambire all'eccellenza, non lo so, forse non una grandissima squadra, ma per crescere una squadra che lotta per i playoff ci può stare. Anche bene, perché è un giocatore che migliora costantemente, migliora. Sì, 8 gol mi sembra che ha fatto. Sì, anno dopo anno, e lui comunque gioca attualmente, sì, sia da esterno, d'esterno basso, il 4-4-2, ma anche da mezzala, quindi non è mai vicinissimo alla porta, la sua specialità sono i tiri da fuori. Sì, la maggior parte dei gol li ha fatti sempre da 25-30 metri, quindi è un giocatore, per quello che sono riuscito a vedere, quasi completo. Ovviamente per queste categorie, poi il campo ci dirà se sarà di categorie superiori. Quindi andrei a leggere appunto il risultato del Trecci Miniere, che non è stato molto felice in questa settimana. Sconfitta per 5-2 a Ortona. Leggo tutti i risultati: Castiglione Marfino, Passo Cordone 2-0, Casalbordino Casolana 3-1, Delfino Flaccoporto Fossa Cesia 1-2, Palombaro Sportland Celano 0-5, Raiano Piazzano 3-1, Val di Sangro Sulmona 4-2, Villa 2015 Fader Angelini Abruzzo 3-0, Virtus Pratola Bucchianico 1-1. La classifica Delfino Flaccoporto e Casal Bordino 59, 58 per l'Ortona, 55 per il Val di Sangro, 44 Villa 2015, 42 per Sulmona Real Trecce Miniere insieme al Bucchianico, 40 Casolana, 39 Bassacordone, 38 Piazzano e Raiano, 36 Fossa Cesia, 34 Castiglione Valfino, 33 Pratola e Fate Rangelina Abruzzo, 31 Sport Lancelano, 14 chiude il Palombaro, che ormai non so se matematicamente, sì, matematicamente retrocesso al campionato di prima categoria. Allora Paolo, una battuta sulla Fate Rangelini. Anche questa squadra l'anno scorso era nel vostro girone, è riuscito a passare in promozione attraverso i playoff. Ricordo la finale con l'Atria che terminò per 1-1 e loro passarono per miglior piazzamento. Una squadra che innanzitutto tengo a ricordare che sono, visto che la Fate era una grande azienda di Pescara, tutti i giocatori sono dipendenti di questa azienda, quindi possiamo dire che da qui si può partire anche subito ad avere uno zucchero duro, essendo tutte persone che si conoscono. Sì, penso che sia la stessa squadra dell'anno scorso. Sì, penso. Qualche elemento in più, ma se non mi sbaglio aveva un esterno d'attacco anche qui che veramente faceva la differenza. Simeone, che era Luca Sparvoli. Anche Simeone c'era, che Simeone. Era veramente forte. Poi quest'anno c'è Faieta, se non mi sbaglio. Sì. Sta lottando per i play-out. Non so se ne usciranno, ma sì, sono tutti attaccati, quindi la lotta fino all'ultima giornata. Corta. Dallo Sport Lancelano, che è quota 31, penultima, al Passo Cordone, che ha 39 punti, sicuramente fino all'ultima giornata si giocheranno tutto. Sì, ma tu, Matteo, il cambio di promozione non so se l'hai calcato, sicuramente con il Mutignano e il Fondella, però non so se l'hai calcato in pieno, proprio con, come posso dire, con la stessa importanza che ti stanno dando questi i giocatori del Borgo, perché possiamo dire, sei una della colonna insieme a Di Giacinto, sei quello che porta i gol alla squadra. Non so se ti hanno dato lo stesso peso in queste categorie, però sicuramente avrai sentito questa categoria, che è molto più difficile della, soprattutto più organizzata, perché agonisticamente magari sono due campionati simili. Sì, promozione prima categoria, io dico sempre che tra le prime squadre di prima categoria e la promozione la differenza sono solo i guardalinee, perché il livello, diciamo, è abbastanza alto comunque. Io sì, in promozione abbiamo fatto un bel campionato quando eravamo a Mutignano, che abbiamo sfiorato i playoff, poi non abbiamo fatto per un punto, che lì stiamo facendo playoff, un bel campionato abbiamo fatto a Mutignano. A Borgo sì, mi trovo bene, anzi molto bene, faccio con Massimo Di Giacinto, ci completiamo a vicenda. Anche perché tu magari sei quello un po' più fisico nell'attacco, e Di Giacinto è quello che è un finalizzatore, lui. Sì. E quindi magari sono due caratteristiche che si accomunano e se messi insieme portano risultati, soprattutto se sono azionati da esterni come D'Agostino, che offre sicuramente palloni molto, molto invitanti. Sì, sì, assolutamente. Ieri è arrivato a quota 18 gol, per un attaccante fare 18 gol senza rigori è un bel traguardo, perché per un attaccante, ripeto, 18 gol senza rigori sono abbastanza. Questo siamo. Allora, comincerei a parlare proprio del girone di prima categoria, così abbiamo un'ampia visione del campionato. Leggo subito i risultati dell'ultima giornata, sicuramente farà sorridere, visto il successo importante con l'Elicese, in casa dell'Elicese, che non è mai facile, visto il campo di terra che non facilita soprattutto le squadre che sono abituate a giocare in sintetico. Ma ne parleremo dopo. Cerratina, Pennese 0-1, Vismon Silvano San Donato 4-1, Calcio Atri Silvi 2-1, Casoli Castellammare 0-0, Elicese Borgo Santa Maria 1-2, Atria Verlengia 2-1, Real Villa Carmi Villa Bozza 1-0, San Giovanni Torrevecchia 5-1. Leggo la classifica. Comanda il Borgo Santa Maria a quota 58, 54 per l'Atria, 50 per il Silvi, Elicese e Vismon Silvano a 47, subito sotto i playoff il Calcio Atria a 43, per Lenge 39, 38 per il Real Villa Carmine, 32 per il San Donato, 31 per il Casoli, 30 per il San Giovanni Teatino, 25 per la Pennese, 22 per il Castellammare, 20 per il Villa Bozza, 13 per il Vischia Latina e 7 chiude il Torrevecchia, che è ampiamente spacciato anche perché... una squadra che a dicembre ha avuto una rivoluzione in negativo, sono andati molte persone via, vanno a giocare in 11, quindi purtroppo sono cose che succedono, quando la società non può, sono questi i risultati. Io vorrei parlare subito della partita di Elice, è finita bene, 1-2, siete stati sempre avanti, e quindi avete comandato 1-0, poi è arrivato il pareggio nell'inizio secondo tempo, se non sbaglio, e poi è arrivato il gol del 2-1. Quindi Matteo, vorrei un commento da te su questa partita, che appunto è stato importantissimo sia per il morale sia per la classifica, visti i 4 punti a 5 partite dalla fine. Sì, ieri io parlandone l'ho definita la partita più bella della stagione, perché ieri è stata proprio una partita maschia, una battaglia. Sapevamo la difficoltà che andavamo a incontrare sul campo di Elice, perché comunque facciamo anche i complimenti agli elicesi, perché è una squadra organizzata, buoni giocatori con grosse doti tecniche. E quindi dicevo che vi ho fatto una grossa battaglia, siamo andati subito in vantaggio. Poi in primo tempo, il secondo tempo ci hanno subito pareggiato, però con l'azione appena messa palla al centro siamo riusciti a riportarci in vantaggio. Quindi, anzi, c'è da fare una nota per tutta la gente che da Borgo ha fatto una trasferta che comunque, anche se alla fine... Sì, magari una delle trasferte più lontane, non sì, è lontanissima. Non è lontanissima, però quella più lontana, però c'erano 60-70 persone solo di Borgo, quindi anche per loro è bello fare quel tipo di partite e soprattutto vincerle. Sì, anche perché c'è qui il capo ultra, possiamo definirlo così, Marco Leonzi, che ci saluta nei commenti della diretta su Facebook. Paolo, sicuramente... in dirigenza sarete entusiasti di questa squadra che sta dando l'anima, si sta battagliando contro tutte le difficoltà, soprattutto quelle iniziali, visto che non c'è stato, in attesa del Druda, il nuovo Druda, avete cambiato molti campi e questo magari sicuramente vi avrà svantaggiato in qualche modo, infatti è arrivato qualche risultato non buono, magari si può aspettare qualche vittoria con partite molto più agevoli, però non è arrivata magari pure per un campo, ad esempio avete giocato a Casoli se non sbaglio, anche giù al campo di contrattacco con le Sciarre ad Atri, nel sintetico, a Scerne, quindi dalla dirigenza sarete sicuramente entusiasti di questa squadra. Sì, indubbiamente, non ce l'aspettavamo sinceramente che eravamo lì sopra. Siamo partiti con una squadra per fare un bel campionato, non ambivamo a forse la prima posizione all'inizio, però ora ci stai, devi lottare perché stiamo facendo un bellissimo campionato, credo, come anche le squadre dietro. Le partite iniziali abbiamo forse perso qualche punto, ma non voglio dire che era per il campo, perché inizio campionato purtroppo è un insieme di cose che tra preparazione e altre cose... Siamo un po' interrogativi, anche perché non conosci le altre squadre. Sì. Cosa che magari il giorno di ritorno sai, e quindi questo Matteo vi può aiutare sicuramente a conoscere le squadre, soprattutto quelle che sono più deboli sulla carta, che sono in posizioni in classifica molto, molto inferiori rispetto a voi. E quelli sono delle squadre che nascondono sempre delle insidie, soprattutto in prima categoria. Abbiamo visto nel giro d'andata il Casoli che vi ha messo fila da torcere. Abbiamo fatto perdere 3 punti nella corsa per il campionato, corsa scudetto, possiamo chiamarla così. Quindi questo a testimoniare che le squadre che sono lì sotto sono sempre pronti a fronteggiare qualsiasi squadra che le vengono lì, pur di conquistare punti per la salvezza. Sì, sì, noi anzi, purtroppo noi con le ultime, diciamo, le ultime 5 abbiamo perso tantissimi punti. Con la Pennese in casa, la Castellammare in casa, poi abbiamo perso veramente tanti punti, il Casoli. Con la Pennese avete rischiato molto, state perdendo 0-1. Stiamo perdendo, poi per fortuna l'abbiamo ripresa, quindi abbiamo fatto tanta fatica con le squadre di bassa classifica. Proprio perché vengono lì a fare la partita della vita. Della vita Come è giusto che sia, ovviamente. A noi ci fa onore, perché sapere che squadre ci temono è sempre un punto d'orgoglio. Sicuramente, anche perché classifica alla mano, anche numeri alla mano, la squadra da temere in questo momento è il Borgo Santa Maria. Sei dello stesso pensiero? Però ti vedo un po' stizzito, magari no. Un po' di scongiurio. Sì, fino a quando non è aritmeticamente che siamo in promozione, non voglio dire niente, perché dietro c'è l'Atria a 4 punti e non è lontano. E passerà tutto dalla 27ª giornata, appunto, scontro diretto ad Atri, ad esempio Pavone contro l'Atria. Sarà sicuramente un match. Invitiamo subito da adesso, anche se mancano molte settimane, perché ci sarà la sosta fino all'8 aprile, si giocherà il 15 aprile, invitiamo tutti gli sportivi, perché sarà la partita che deciderà questo campionato, probabilmente. E quindi sarà sicuramente una battaglia. Come tu hai detto, a Eli c'è stata una battaglia, ad Atri sarà altrettanto dura. Sì, sì, sì, ma come la prossima contro il calcio Atri, abbiamo queste due adriane, una dietro l'altra, ne affrontiamo una alla volta e vediamo cosa ci portano anche gli altri risultati. Io vorrei fare un cenno su i fatti accaduti al calcio Atri, sono successi, intanto commenterei la partita prima e poi passerei con questi fatti. Il Silvi è riuscito, il calcio è riuscito a battere il Silvi dopo 10 partite consecutive, perché il Silvi veniva da 10 vittorie consecutive, ti ha messo un po' paura, sinceramente. La potete dire, perché alla fine era una squadra spacciata, forse a girone d'andata, nessuno si poteva aspettare un exploit così, magari erano forse 14 punti che vi differenziavano, erano 14, qualche punto per strada è ovvio che si perde, loro non hanno perso quasi niente. Hanno fatto 30 punti su 30 disponibili, si sono avvicinati e questa sconfitta purtroppo penso che chiuda le pratiche per il Silvi, che oramai è veramente difficile che sia l'Atria che voi perdiate rispettivamente 4-8 punti in 5 partite. Io penso il Silvi gli va fatto un grande applauso per le 10 partite che hanno fatto, che le hanno vinte tutte quante. Però penso allo stesso tempo che quando hai 10 punti di distacco da una squadra è difficile che puoi vincere il campionato, perché onestamente poi era una corsa su 3 squadre, perché comunque eravamo noi, l'Atri, poi le Licese e poi c'erano loro, quindi era veramente difficile arrivare a vincere quel campionato. Loro sono stati sfortunati per la partenza che hanno avuto, perché comunque sono partiti molto male, però per la squadra che hanno sicuramente si meritavano di giocarsi il campionato fino all'ultima giornata. Sì, purtroppo il campionato si gioca su 30 partite, quindi sì. Non si può basare soltanto sul girone di ritorno, quindi purtroppo è così. Intanto, allora, questa partita è andata, non so, voi non avete capito, ovviamente eravate a giocare, io l'ho vissuta in prima persona, ero lì a commentare per abruzzogol.net. È stata una partita che il calcio Atri ha impostato subito sull'aggressività. Sull'aggressività a uomini come esempio Perini, come Ragnoni, che sono aggressivi di natura, proprio sono aggressivi e quindi hanno messo il gioco sulla propria caratteristica. Da lì sono passati in vantaggio con un gran gol di Ragnoni, un gol a 30 metri sotto la traversa, imparabile per Cerasi, anche se è stato un po' colpevole, visto che la palla non era molto, molto potente, però è sempre stato un tiro che ha avuto meriti. Poi c'è stato il raddoppio di Cantoro, il nuovo acquisto del... Tu hai già giocato a Mutignano con sì, Cantoro? Sì, con Domenico, sì. Che è stato il nuovo acquisto appunto di dicembre, in contropiede lo stesso Ragnoli ha recuperato palla, si è districato sulla destra, ha messo al centro Cantoro solo contro il portiere, non ha potuto fare altro che metterla dentro. Poi c'è stato il ritorno del Silvi che nell'ultimo quarto d'ora ha giocato, vedendo la partita, soltanto l'ultimo quarto d'ora. C'è stato Vaccaro che penso sia un giocatore formidabile, i numeri lo dicono, 26 gol in altrettante partite, media di un gol a partita, tralasciando anche la Coppa, ha fatto 6 realizzazioni anche in Coppa, ha fatto un gran gol, ma da commentare purtroppo sono i fatti accaduti fuori dal campo. C'è stato il presidente Italiani, il presidente Alessandro Italiani, che è stato aggredito dai supporter del Silvi. Si è creato un parapiglia generale tra supporter Adriani e tifosi del Silvi. Ovviamente lo spettacolo non ne ha giovato, perché se dentro il campo era stata una bella partita, fuori magari c'è stata questa nota dolente. Voi sicuramente non vi farà piacere, voi avete anche molti tifosi che vi vengono, come hai detto tu, ad esempio adesso sono arrivati 70 persone da Borgo, avete molti tifosi che vengono, però la compostezza fa onore, soprattutto, anche se la possiamo dire, la compostezza dovrebbe essere una cosa naturale. Non è naturale un comportamento del genere, anche perché Italiani è dovuto scappare. Lo dico chiaramente, purtroppo non possiamo nasconderci, noi raccontiamo soltanto i fatti. Noi dovevamo avere Italiani quest'oggi in studio, però non è potuto essere nostro ospite. Se no, sentiamo anche un commento a caldo dal diretto interessato, però i fatti sono questi. Lui è stato aggredito, anche molti giocatori del Silvi hanno risposto alle iniziali provocazioni che lo stesso presidente ha dato, vista la vittoria che ha condannato il Silvi. Poi c'era nervosismo appunto per questo fatto. Diciamo, non so se l'arbitro prenderà provvedimenti, speriamo di no per lo spettacolo, però purtroppo sono dei comportamenti che vanno puniti. E voi cosa ne pensate? Non so che dire, perché ogni domenica se ne vedono di tantissimi modi, sugli spalti, nel campo. Diciamo anche che gli arbitri non sono agevolati in questa categoria, perché purtroppo non ci sono i guardalinea, continuo a ripeterlo. Lo è stato detto anche nella riunione che è stata fatta alla Lega, alla Federazione. In questa categoria non ci sono i guardalinee e gli arbitri sono molto penalizzati. Sono. Anche perché sono molto giovani anche gli arbitri. Sono giovani, anche minorenni a volte, accompagnati dai genitori. Poi sugli spalti purtroppo si sa come va a finire, tra una parolaccia e un'altra. Non dovrebbe essere così, ma... Anche se purtroppo questi fatti non sono accaduti forse fortunatamente per l'arbitro, sì, non sono accaduti per colpa sua, quindi c'è stata proprio una, possiamo chiamare, maleducazione, perché sono fatti che devono essere per forza condannati, non possono passare inosservati. Non so, magari ci sarà una multa per il Silvi. A noi ovviamente fa dispiacere per il presidente e per la squadra, perché non sono cose che ovviamente noi stiamo raccontando dei fatti. Magari chi ci segue pensa sicuramente che l'immagine del Silvi sarà molto toccata da questi accadimenti, però il fatto è purtroppo che le società rispondono anche ai fatti che succedono sugli spalti, come è giusto che siano, perché parte tutto da loro. Quindi sicuramente verranno puniti in qualche modo. Ci dispiace per il presidente, però sicuramente in queste categorie, non essendoci forse l'ordine al seguito, chi realmente deve scontare qualcosa non verrà mai perseguitato, possiamo dire così. Io vorrei fare un commento anche sul Vismon Silvano, che nel girone di ritorno magari è stato una delle rivelazioni, perché ha fatto molti risultati pure contro di voi. Ha vinto 1-0, ha fatto un gol su calcio piazzato, se non sbaglio, calcio da fermo, con colpo di testa. No, un'azione. Un'azione. Era un'azione, colpo di testa sì, ma era un'azione. Ok, allora mi sbagliavo. Non è il risultato purtroppo non cambia. Sempre quello. 1-0 che poteva essere pesante, però magari nelle giornate successive l'Atria ha perso qualche punto, quindi diciamo che avete fatto un po' un compenso. Questa squadra che è una squadra che non ha individuali molto di nome, possiamo dirlo così, però una squadra compatta che sta dando tutto, tutto per centrare questi playoff, e sicuramente penso che tirano la loro anche in chiave playoff. Sì, loro contro noi, quando abbiamo giocato contro, è stata una partita a senso unico, ma da parte nostra siamo stati sfortunati a non trovare almeno un gol, perché dico almeno perché abbiamo avuto, anzi io personalmente ho avuto veramente 5-6 palle gol. È stata la classica domenica che non devi fare gol, abbiamo perso 1-0. Loro però hanno anche la miglior difesa del girone, quindi qualcosa di buono lo avranno. Paolo mi diceva prima che forse il Mistumon Silvano è una delle squadre più forti che avete incontrato in questo campionato. Sì, personalmente per quello che abbiamo incontrato noi, la reputo una squadra che è stata una delle più difficili. In casa abbiamo vinto 0-1 al 90esimo con un gol di Piscella, e in casa loro abbiamo perso 1-0, ma sia in casa che fuori casa ci hanno dato veramente fastidio e hanno un bel, non voglio dire un bel gioco, ma sono veramente molto duri da prendere in campo, e niente, forse la classifica, hanno perso un po' di punti, penso come le Licese dopo la sosta, anche dopo di noi, dopo la partita dell'andata, hanno fatto tipo 7-8 vittorie, penso. Sì, hanno fatto molti, non so se erano vittorie, comunque risultati consecutivi, molte partite consecutive. Faranno sicuramente i playoff, penso. È una squadra che può dare molto fastidio. Anche perché possiamo dire, Matteo, eravate partiti non con il favore del pronostico in questo campionato. C'erano squadre sulla carta più attrezzate, come ad esempio il Silvi, che era la vera corazzata in questo campionato, veniva il cambio di promozione, retrocessa, e quindi era una di quelle squadre che doveva vincere il campionato in lungo e largo. Poi ovviamente c'era anche le Licese, c'era l'Atria, ci sono, perché non ancora... Ci sono squadre che sulla carta erano molto più avvantaggiate. Però qual è stata la forza di questo Borgo Santa Maria per arrivare a 5 giornate dalla fine con 4 punti di vantaggio sulla seconda? Noi sicuramente la forza del gruppo, perché comunque, come dicevi pure tu, siamo partiti le prime giornate giocando sempre fuori, non abbiamo giocato mai in casa. Abbiamo avuto la defezione che due giocatori chiave per noi come Carino Tulli e Stefano Pellone si siano infortunati, infortunio grave hanno avuto tutte e due. Speriamo che li riusciamo a recuperare per le ultime giornate, perché se dovesse essere che vinciamo il campionato è pure per loro, perché loro continuano a far parte del gruppo. E quindi, come ti dicevo, la forza nostra è stata del gruppo. Io Borgo veramente la definisco una grande famiglia, perché dalla dirigenza, che non ci fa mancare mai niente, e dal presidente, che è veramente un padre a questo punto, perché è sempre disponibile, ci riesce a parlare, è molto disponibile. Poi gli stessi dirigenti, si è creato veramente un'armonia tra giocatori, dirigenti, tifosi, siamo tutta una grande famiglia. Anche perché, lo posso dire, la maggior parte sono tutti di Pineto, non so se tutti quanti siete di Pineto, tutti i giocatori, forse... Sì, forse la forza del Borgo è quella, come dicevo. Che poi siete anche molti, in rosa siete, non so, 18-20 persone che sono tutte quanti abbastanza competenti nel... Quindi magari, come hai detto tu, ci sono stati gli infortuni di Tulli e di Pellone, però c'è chi è pronto a sostituirli, magari, sì, cosa poi... che altre squadre non possono avere. Poi mi ero dimenticato sto parlando della dirigenza, che è stata anche brava a dicembre a prendere anche sempre un ragazzo di Pineto come Riccardo Dorante, che ci sta dando esperienza, una grossa mano, Eh sì, poi anche il mister comunque un grande allenatore, grande persona, quindi abbiamo tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo. Qui ci suggeriscono, sono tutti di Borgo, non di Pineto. Tutti di Borgo. Volete confermare? Sì, ormai abbiamo preso la cittadinanza di Borgo. Il nostro sindaco Marco Leonzi. Quindi, allora Paolo, secondo te come affronterà questa squadra le ultime 5 giornate? Speriamo nello stesso modo che abbiamo affrontato la partita di domenica contro l'Elice. Ora c'è la sosta, ricarichiamo le batterie per il finale del campionato. Niente, io volevo spendere una parola per il nostro mister, che ho avuto modo di conoscere personalmente quest'anno, perché sono entrato in società da quest'anno, che io penso che sia uno degli allenatori che ho visto anche nel panorama calcistico della prima categoria, penso che sia uno dei migliori, penso. I numeri parlano, quindi sì, sicuramente sarà uno dei migliori. Ha avuto una promozione con il Giulianova, anche dalla prima categoria alla promozione. È veramente una grandissima persona, che penso anche Matteo lo può confermare, che durante la settimana sempre disponibile, mai una parola fuori posto, sempre lì. Mi fa veramente piacere di averlo conosciuto e speriamo che ci porta alla vittoria. No, perché Matteo, nelle ultime giornate, vedendo anche post, non sono riuscito a seguire proprio in pieno tutte le partite, vedendo anche le comunicazioni dalla stampa del Borgo Santa Maria, c'è stata qualche partita dove vi siete trovati un po' in difficoltà, pure forse atleticamente. Questa vittoria con l'Elicese sicuramente vi galvanizzerà e vi darà sicuramente più forza. Sì, ma come dicevo, no, atleticamente non penso, perché comunque soprattutto ieri abbiamo fatto una partita di grande corsa, di grande lotta, quindi siamo usciti dal campo veramente stremati tutti quanti. Ecco, come dicevamo prima, purtroppo vengono le squadre ad affrontarci. Anche perché il campionato 30 partite di alti è impossibile, quindi sì, qualche partita buia c'è sempre. Vengono le squadre cercando di non perdere, cioè l'obiettivo delle squadre è di non perdere a Borgo. Poi con il campo, il Druda, che non è un grosso campo di larghezza, lunghezza, quindi se trovi una squadra che diciamo si chiude un po' dietro, fai fatica a dilagare, diciamo. Devi vinci, soffri, ma fa parte del calcio. Adesso avrete partite fondamentali, come ho detto prima, il calcio Atria alla prossima dopo la sosta l'8 aprile, il 15 avrete l'Atria, il vero scontro promozione, la 29esima giornata, che è la penultima, a Silvi, e sarà un'altra battaglia. Vedendo anche la classifica, comunque probabilmente il Silvi, non so se avrà ancora qualcosa da dire al campionato, ma sicuramente lotterà per, è pur sempre un derby, quindi... Anche perché dopo la sconfitta ottenuta all'andata contro di voi, 4-3 in rimonta, loro avranno sicuramente un po' di amaro in bocca. Sì, anche perché fu l'ultima partita, l'ultima sconfitta prima di questa ottenuta domenica. Ripeto, la classifica adesso la sappiamo tutti. Abbiamo questi due derby atriani con due squadre forti. Però non ci nascondiamo che comunque se noi andiamo a affrontare il calcio Atri, l'Atri sarà di scena a Silvi, quindi magari si può compensare, cosa può succedere a livello di punti. E poi dopo quella domenica si viene qui al comunale di Atri a giocarci, speriamo, il campionato. Sicuramente sarà una bella partita. Io rinnovo la mia richiesta a tutti gli sportivi del posto di ovviamente accorrere allo stadio a vedere questa. Da Borgo verranno sicuro. Sicuramente, ma anche ad altri sicuramente. Più, magari è bello anche vedere neutrali alla partita e vedere uno stadio pieno che magari ad Atri non si vede, dalla lontano 2007-2008 quando c'era ancora l'eccellenza, quindi sarà sicuramente bello. Io in chiusura leggerei subito velocemente i risultati della seconda categoria, che c'è lo Scherne che sta vincendo per il momento il campionato, che ha appena risultato con Ropoli 0-1, Casimonino Real Castellato 0-0, Castagneto Scherne 0-0, United Piane Campi 0-0, Castrum Silvi Bisenti 1-1, Paterno Tofo Cortino 1-0, Rocca Santa Maria Bellante 2-1. Comanda lo Scherne con 50 punti, 45 per il Castagneto, 43 per il Paterno Tofo, 42 per il Cortino, 38 per il Corropoli, 36 per Real Castellalto, 35 Casemolino, 34 Arside, 33 Campli, 26 Castrum Silvi, 24 Bisenti, 22 Bellante, 19 United Piane, 17 Rocca Santa Maria e 7 Cappelle sul Tavo. Non so se una piccola battuta sullo Scherne, se avete visto qualche partita, forse... visto che giocate entrambe la domenica non avete seguito molto, però qualche notizia sicuramente avrete sentito, mi farà piacere che una squadra, comunque sono dei concittadini, Silvi e Scherne fa parte del comune di Pineto, quindi sicuramente fa piacere. Sì, speriamo anche loro che riescono ad arrivare fino in fondo, perché comunque, come dici tu, quando le squadre sono della zona fa sempre piacere. È sempre bello. Poi Paolo, io vorrei fare un'ultima battuta sempre sul Borgo Santa Maria. Visto che abbiamo qui il bomber, vorrei fare una battuta sui due bomber, sul doppio bomber del Borgo Santa Maria, Di Giacinto e Ion Marini. Un commento sia da parte tua che un pensiero generale che la dirigenza, che sicuramente si sarà esposta. Sì, io... Li avete comunque sostenuti dall'inizio del campionato, questo è da dire, avete puntato su di loro. Sì, abbiamo preso Matteo di Giacinto, già aveva giocato nel Borgo, poi era stato all'Atri, abbiamo ripreso e poi abbiamo preso Matteo, che penso che su cui abbiamo puntato veramente molto. Sinceramente da parte mia, lui Matteo Marini l'ho visto giocare anche in altre categorie. Quest'anno sta facendo veramente, cioè Massimo anche di Giacinto sta facendo veramente tantissimi gol. Penso che Matteo gli sta dando una mano, ma Matteo è veramente... Magari lui sta facendo il lavoro più importante della squadra. Cioè, tutto il lavoro sporco fa lui, assist, veramente un grandissimo giocatore per noi. Suggerisce Marco Leonzi che il terzo bomber è Piscella, quindi sì. Parliamo anche di lui, così lo facciamo contento. Non dimentichiamo che abbiamo in squadra un giocatore che è di Borgo, che è Piscella Luca, che ci ha dato veramente una grossa mano delle partite, di cui contro la Vis Montesilvano, che abbiamo vinto al 90esimo, che ha segnato proprio lui. Non vorrei dimenticare un giocatore che tengo moltissimo, che è Federico D'Agostino, che sta facendo veramente un bellissimo campionato, sta facendo, e penso che sia uno di quei giocatori che meritano anche qualche categoria sopra. Tu Matteo, la fiducia dirigenza sicuramente l'avrai sentita nel corso delle partite. Sì, ma come dicevo prima, a Borgo si sta veramente bene. Mi ricollego con Marco Leonzi, che ha scritto che Piscella è il terzo bomber. Questo a rimarcare la bellezza del nostro gruppo, perché comunque non ci dimentichiamo che abbiamo in squadra la vecchia guardia del Borgo, come Luca Piscella, Alessio Ferretti, che comunque stanno trovando meno spazio, ma sono veramente sempre i primi che si mettono lì a dare un consiglio al più piccolo. Sono stati intelligenti a capire che il loro ruolo riescono ad essere importanti anche non giocando. Siamo noi. Enzo Paolo, se vuoi, siamo in chiusura, se vuoi aggiungere qualcosa. No, io volevo aggiungere semplicemente che speriamo nelle ultime 5 partite di campionato, penso. Speriamo che ci sia veramente dello spettacolo da vedere sopra gli spalti. E non solo, anche in campo. Speriamo. Anche in campo, e speriamo che, sempre incrociando le dita, speriamo che questo campionato si indirizzi nella giusta direzione per noi. Allora siamo in chiusura, io ringrazio il bomber Matteo Iommarini. Grazie a voi. E ringrazio Paolo Paoletti, dirigente del Borgo Santa Maria. Grazie a voi. Radio Cerrano ha presentato Sportivamente Parlando, un programma ideato e condotto in studio da Federico Di Fabio.